45. Mario, cosa mi dici? È andata via subito. Non ho capito Mario cosa ha detto, quella di fronte la stava modulando poco fa. Ma io stavo modulando quello di Sciolso, di Serra Longa. Ah, non ero con te. Prova a venire avanti per il controllo. Guarda, 1, 2, 3, prova. Come radio è buono, ma come Santiago mi arrivi a Santiago di 5. Ma io? R. Ma questa è radio qua, no, guardami Santiago, tu puoi arrivare anche il 0 di Santiago e arrivare forte di radio, capito? Tutti gli apparecchi non sono uguali, però la radio è bellina, Sono fatto apposta così, dobbiamo arrivare forte di radio, di Santiago si può arrivare anche Santiago 1, 2, con la radio la senti bene. No, no, come Santiago, certifichimi di arrivare a 8, arrivi. Perché sono nel movimento dove ci sono gli alberi, capito? Quello è il problema. Io come ti mi ascolti, c'è qualche ronzio, mi lascio la portante muta adesso. No, tu sei Santiago 9 Radio 5, Santiago 9 Radio 5 Mario per me, qua, alla torretta, cambio. Non c'è qualche ronzio, qualche disturbo? No, no, disturbi se lo trovo detto, disturbi adesso non ne hai, prima lo avevi, te l'ho detto, ma adesso non hai niente. E a me adesso qua mi ascolti dalla collina di Aidi. Qua sono dove c'è la torretta di fronte, se ti ricordi c'è quella casa in punta in punta nella montagna, là, in quella collina che c'è, io la chiamo la casa di Heidi. Guarda com'è bellissima, chiara, hanno Santiago 8, molto bella la radio. Va bene, va bene. Ma l'ho provato in diverse parti, dal Ghero, da Ghero c'è arrivato Santiago 95 con la macchina, infatti un po'. L'ho provato da varie parti, dai. È sempre bene se arrivato, non c'è problema. Questo impianto è fatto da doppio room, cambio. Anni già è carissima amica, dopo già è capace di fare qualche cosa, con Gianni ci conosciamo almeno a meno in frequenza una quarantina d'anni. E anche verticale. anche verticale. Ma te ne ricordi quando venivi in sede, Mario, che diceva il giovane, anche io ero bambino, quasi. Avevo avuto 14 anni, 15 anni, quando c'era la sede via Luzzatti, numero 5, vicolo chiuso. Io mi ricordo già, se ti ricordi facevo parte dell'associazione, ero delegata allo sport io, che uscivamo la domenica sera o il sabato per fare la partita con gli altri radioamatori, eccetera, eccetera. E di fronte c'era il circo filatelico, io mi ricordo tutto bene, anche se ero un bambino, ci può dire, perché ero una ragazzina, ho avuto forse ero 14 ma 17 anni, dai, ero giovane, vabbè. Mi ricordo che veniva a farmacia, Maria Antonietta, Lucchetto, tutti quelli mi ricordo, Papa Altegastro. Ma te lo ricordo Papa Altegastro? E come no, e come no. Allora, cosa, segretario c'era, ma adesso non me lo ricordo. E poi le QSL, non c'era bisogno di stare a limosina da nessuno, ti arrivavano lì e giù le dicevano, più luce, più butto sempre la cartella postale, la butto, no. Magari non solo in 3 o 4, o ogni giorno si passava, che faceva prima, ritirava e si consegnavano, capito? Allora si mandavano per QSL, per via postale. Prima Mario ce l'avevo anche io, il mio box, cioè dopo, non prima, dopo l'ho avuto, 492, mio box 492. L'avevo Pippo, però sicuro, 6, 7, 8, 12. Va. E da qua come mi ascolti, Mariolino, come mi ascolti da questo punto qua? Cambio, qua sono a Porto Torres. Bene, bene, bene, come radio, sì, un bombò, una cannonata. Ma come Santiago più di 8 no, non vale, non sale su, siamo lontani qua, in mezzo ai palazzi, in mezzo alle case. Però la radio vedi che è sempre buona. E sì, è sempre ultima per la truppa. Sempre utile. No, io adesso sto uscendo con Inket, no? Quest'Inket, siccome questo periodo non mi sento tanto bene, ho fatto una prolunga e me l'ho messo vicino al letto, capito? Noi che stiamo durando dalla stazione fissa, perché dalla stazione fissa è tutta un'altra cosa, capito? Ho capito, È una cosa provvisoria, ho capito. Poi con tutti questi prolunghe e queste dell'altro perde un vermi. No, non ci sono problemi per quello, già. Naturalmente se dovessimo durare dalla stazione base, no, mi sentirai molto molto più bene, ma accontentiamoci per il momento per questo. Andiamo bene. Piuttosto mi sta andando male il ricevitore. Il ricevitore no, già è uno dei vecchi ricevitori, tutto in ferro, e a cosa, valvole. Io penso che si sia esaurita le valvole. E ho chiesto di quelle valvoline, non se ne trovano più. E che valvole sono? Sono di quelli un po' grossolane, capito? Tu dimmi la sigla, se mi dici la sigla te ne cerco su internet. Non me ne ricordo adesso la sigla, capito? No, viene tutto, però no, ascolto di radio, se non che stanno modulando nella mia zona, come Gio Maria, come altri che sono furti, che escono lineare, allora riesce, ma quelli che sono lontano non li prendo. Probabilmente così sta le valvole, vorrà sostituite, ma sempre qualche collezionista Mario si trova, capito? Qualche collezionista che ce li ha si trova sempre. E ho chiesto Antonello, se sta interessando Antonello a vedere un po', se lui, tanto lui ha questi apparati per le mani, aggiustando cose varie, e me l'ha detto lui che è difficilissimo a trovarle, adesso la scegli, non mi ricordo. Io sono adesso un po' dottore, se me ne parla. Adesso ti saluto, a risentirci alle prossimine, mi ha fatto molto piacere di aver passato 10 minuti, mi saluti il Corea, buon pranzo e buona domenica. Grazie, ma intanto quando lo farai, dai. Io adesso me ne salgo la sassa di nuovo, devo fare cose, devo andare a mia sorella, quindi me ne salgo lì. Devo stappare prima di berla. Così Luca lo sa, perché la bevi fa sempre mal di testa la bevita. Vabbè, io sono qua a Piadana, sono arrivato, vi saluto cordialmente, mi ha fatto piacere scambiare quattro chiacchiere con voi. Ti prenderò dopo, vai, vado, faccio il mio lavoro e torno, tu Luca già lo sai. Ciao. messaggio pubblicitario. Associazione CB Nikola Tesla, abbiamo aperto un profilo Facebook, venite a trovarci. Matteo, l'ha avvisato. Negativo, non ho copiato. Ti devo guardare l'amicizia, non so che buco. Oh, una volta che arrivi nella pagina scrivi mi piace e ti viene e vieni registrato come coso, come partecipante, cioè partecipante alla pagina Facebook. Ok, ma il tuo cognome cosa c'ha? Origini Pentisi? Negativo, o Tiresi. Ah, capo. Perché io ho lavorato un anno, mio padre non bisogna di prendere un po' d'aria qua, ho preso questa casa a Tempio e si chiamava Di Belturo, più o meno era così, là. Non far sapere come mi chiamo. Sì, ma non credo che siano parenti, perché il mio è sardo sardo. Ti ricordati che un nome sardo sardo deve avere almeno due U. Paga. No, ma io non ho detto il tuo cognome, è un cognome che si assomiglia, Di Belturo. È un cognome che si assomiglia un po', capito? Quindi te l'ho chiesto per quello, vabbè, non vengo a lunga, va, so. Era una parentesi. Già, non c'è problema, figurati, è uscito sul giornale, non è che... E poi basta entrare in questa pagina che stavo dicendo a Luca, già si vede. Nulla da nascondere come vecchi tempi, purtroppo. Avanti, Luca, per i saluti a Gianni. Ciao, ciao Gianni, a più tardi magari. Ascolta, tanto, dove vedi sulla stringa devo scrivere qualcosa? Vuoi scrivere qualcosa, se non vuoi scrivere niente basta che scrivi mi piace in alto a destra. Ma sono stato registrato, dimmi cosa devo scrivere. Piace, cioè, prendete in alto sulla destra, scrivi mi piace e ti mette come fra i partecipanti e poi puoi scrivere quello che vuoi. Sono stato registrato, come faccio a scrivere mi piace? Ascolta, non è che devi scrivere mi piace, c'è una specie di, non di banner, però di pulsante dove c'è scritto mi piace. Non so se lo vedi, in alto sulla destra. Sei compreso tu, ma non sono registrato, non so neanche cosa devo scrivere. Ho capito, tanto io se lo so registrare, ci si fa che commenta, o condividi, lo so. Ma non so da dove, dimmi dalle mail, dove ne so io. Sei registrato, ma tu allora, c'hai un profilo Facebook. Una volta che entri in quella pagina, come sei entrato, come schiacci, clicchi, mi piace, ti mette direttamente in lista, punto, basta, non devi fare altro, poi se vuoi scrivere puoi scrivere, se non vuoi scrivere non c'è problema, però una volta che tu schiacci il pulsante mi piace ti mette nella lista delle persone del sito. Tanto non lo trovo il pulsante mi piace, dove devo cliccare? Che è in alto sulla destra. In alto sulla destra, io non è vero con il pulsante mi piace, assolutamente. Faccio gruppo, rimuovi, se me la frutti. Rimosso il vento, mi interessa, mostra tutto, aspetta. Candeliere, circolare. Non c'è il numero tu qua, mi piace, va bene. Sei sulla pagina giusta, cioè c'è scritto associazione Nikola Tesla Sassari. Nikola ci scriveva la tappa, eh. Se tu mi dai il nome io, Nicolas, Nicolas, Nicolas 3, com'è Nicolas? Poi cosa Nicolas, madonna ragazzi, allora scrivi Nicola, Nicola, N-I-K-O, Nico, L-A, Nicola, come se scrivessi Nicola, però con la K invece che con la C, Tesla, e vedi che ti fa uscire su subito, mettici anche CB nella ricerca e vedi che lo trovi subito. Nicola Tesla non l'ho dato, Nicola Tesla, Tesla, no, non l'ho dato, io aspetto. Ma tutto attaccato? Negativo, allora scrivi associazione CB Nicola Tesla. Nicola scritto con la K, è Nicola, scrivi Nicola con la K, Tesla. Allora, associazione Nicola Tesla. vediamo un po'. Accettazione, mi piace, ok. Mi scrivo al gruppo, clicco lì. Iscriviti, così da poi ti si curvura, iscriviti. Mi manni, ok. Piccolo. Aspetta. Morire, ok. Senza cultura mi ricordo a Tesla, ok, fatto. Sono iscritto. Cioè ci sono anche delle ragazze che all'interno. Ho visto. Andiamo un po', aspetta. Associazione, ecco. Così è tutto bene, modulato. Chi è il nostro Nicola Tesla? Chi è? Ma Tesla è la persona grazie alla quale tu stai modulando. Nikola Tesla era un ingegnere croato a cui ho, mi sconosciuto, nel senso che conosciuto poco e allo stesso tempo a cui, proprio dato dal fatto che era una persona particolare, un po' pazza, diciamo, tant'è vero che veniva chiamato, soprannominato l'inventore pazzo, che ha fatto tutta una serie di invenzioni e purtroppo che non gli sono state riconosciute o accreditate ed è stato schiacciato perché dava fastidio a determinate persone, come poteva essere Edison, perché lui è quello che inventò la corrente alternata. Tu immaginati che prima esisteva solamente la corrente continua, sei meglio di me che in corrente continua dopo pochi metri già c'è un decadimento del segnale. Lui aveva scoperto che con la corrente alternata bastava innanzitutto avere dei cavi di trasporto molto più fini e allo stesso tempo il segnale era molto più forte. Oltre a quello, le onde radio realmente le ha inventate o scoperte lui, e siccome però lui stava studiando e voleva inventare il teletrasporto, Marconi entrò nel suo laboratorio, vide la cosa, gli piacque, capì l'importanza che poteva avere e gli fregò l'invenzione. Questo chiaramente non lo leggi sui libri, o meglio, se fai una ricerca su internet c'è scritto, però sai, siccome Marconi è stato quello che è stato per l'Italia, questa cosa non è ufficiale, diciamo. Ho capito. Ci parli tu, ho scritto già tutti la Sardegna a io giusto per così un saluto. Aspetta, ma tu facciamo K negativo perché? Fammata di lingua 940 sì qua via, perché sono in un altro QTH e perché ci abbiamo un po' di accelerate, dai. Infatti. Sono una praticamente quanti anni, adesso. Vabbè, comunque, ripeto, la bella cosa, vai. Ma tu non ci sei su Facebook, come... diciamo, certo, ho contato Facebook, no? Ce l'ho. Dai. Ce l'ho. Una nuova amicizia, aspetta, che mi colo cognome, annaggia, cognome è strano tu. Allora, Antonio Brecco. Con un finale giusto? Confermi. Fermo, ma guarda se lo vedi nella pagina del coso, nel sito, mi dici, Aspetta, allora, senti, tu come fuggi in braccio, racconto. Punto, occhio. Questa è una nuova amicizia. Caramelle, non le voglio più. Chiudi, lascia vedere. Accetta, ma non vuoi, ma non è voglia. Questa è una roba. Hai 184 persone. Ma gli amici non li vedi perché li ho nascosti, perché ho gente che si comporta male con i contatti che ho io. Vediamo ho sentito un altro tipo, da quando vedi inizia a chiamare l'amicizia, come si chiama, Attenzione Giuseppe, dai che stiamo facendo, stiamo monopolizzando. Avanti Giuseppe. Giuseppe era in barra mobile, quello che muto la vicino a te. Giuseppe! Non ce ne sono. Chi siamo rimasti? Contiamoci. Uno. Due. Poi siamo rimasti. Ma ci vado a pulire di nuovo, c'è questa Kenwood, andiamo a pulire dentro, sarà un po' di polvere. E stavo pensando anche di mettere un po' la ventola, perché fa troppo casino quando non si attiva. Lì è una specie di ventola, non so se è cilindrica, non so se l'hai mai vista. Ti basta che gli metti un po' di olio, gli dai una bella, se c'hai un soffiatore, gli dai una passata, se no ti compri quelle bombolette a 3 euro di aria compressa e gliene dai una passata. E dopodiché gli metti un po' di olio sulle giranti. Capito? Comunque io non sono d'accordo su quello che stava dicendo, non c'è una logica, poi ti ripeto, sicuramente lui ne sa più di me, senza metterlo minimamente in discussione. Su quello che diceva Claudio, nel senso che è impossibile che se noi sentiamo bene prima una persona che utilizza un apparato, dopodiché ne prende un altro e esce diversamente, è impossibile che il problema sia nostro e non suo. Ma ci credi, sono rimasto meravigliato. E allora, se io ascolto bene a te, ascolto bene a Claudio, ascolto bene a Gianni, ascolto bene a Giuseppe o a Sandro, quello chi è. Massimiliano lo sento male, non è un problema mio, non è un problema della radio, perché se ascolto male a Massimiliano devo sentire male anche a voi, è questo, però non è che lo sentivo bene, è una cosa che ancora non riesco a capire. Sicuramente come ha detto lui è una questione di refrazioni, di tutta un'altra serie di cose che noi, di cui non abbiamo la cultura per poter capire la cosa. Però, mi lascia un punto di domanda, però, comunque va bene, non, sai, molto spesso ne stava nascendo quasi una diatriba, una persona quando, se è un amico, se gli dice la verità, sta uscendo male, glielo fai come cortesia, perché ci può essere qualcosa, ci possono essere stazionari, ci possono essere tutta una serie di problemi, quindi non lo fai come cattiveria, assolutamente. Ma, Antonio, se tu mi chiedi un controllo a me, non ti faccio contento, perché... Tipo l'altro, sto uscendo male, te l'ho detto. Io non faccio contento a nessuno. Se uno esce male lo dico. Poi, come la prendo, non mi interessa. Ma io dico la verità, quando uno esce male, esce bene, punto e basta. Se la storia dice sì, esci bene, non esci bene. Esci male. Oppure dico, magari magari siamo sopra anche. Sì. Però quando dico quello che ho controllato lo do giusto, segnale giusto, non è dico oggi 9:10 o 9:20, no, adesso ti stai arrivando 9:40, quasi 9:40. Può osservare la differenza, guarda un attimino se scende così, aspetta, tic, adesso è sceso, di un minimo, e dopodiché guarda così, sceso del tutto. Cazzo, 9:25, allora, fatto. 9:40, 9:35, 9:25. Pulito, aspetta un attimo. La radio va sempre bene. No, è vero, è forte, forte, poi va bene. Adesso sono pulito, senza come mamma l'ha fatto. Sì, 9:25, 9:28, picchi di 30. Così, ma infatti guarda, alla fine non ne vale la pena, per il QSO locale è inutile stare lì a caricare ed avere problemi magari. Sono liberato a tua buia, sembri, non dico sotto casa, ma quasi, sotto, ma sono sopra, nel senso che ti prendo da sopra da qua, però siamo vicini. Vivi bene, non c'è problema per quello. fare di più per me. E vabbè, quando uno fa le cose fa per bene, poi soprattutto che cura la radio, a me non mi piace di uscire tanto da fischi, no, per più ci va bene, senza fare fischi, senza fare neschi, ogni tanto capita, vedi, perché io mi autoascolto, senti, e nesca, capito? Ma lo dico, hai da dici pulito, piano piano mi appento e riesco nel mio piccolo, dai, a fare qualcosina. La radio, quando è bella pulita, ti ascoltano bene, non c'è problema. Dico, non stanno lì, ma non ti capisco, bubba, è cupa, così va, o i meschi. Ancora tu devi dirti, vedere un po' la... quella MD più 5 che è collegata alla tua radio. E mi sembra strano, è un problema di massa. È una cosa micidiale, non può essere, ecco. Ripeto, io se non entro innesca, perché innesca secondo te? Vediamo un po' se indovini. Io te lo dico subito perché innesca, se vuoi te lo risolvo subito il problema. Innanzitutto perché quel microfono è troppo, ha troppa potenza in volt per quanto riguarda quell'apparato, perché se quell'apparato dà gli 8 volt sullo spinotto, se tu lo utilizzi come alimentazione del microfono già inizi a fischiare di meno. E infatti lo potresti fare proprio perché, come me, grazie al tuo suggerimento, non ho utilizzato il filo rosso. Il filo rosso lo puoi utilizzare per alimentare il microfono. Quindi te lo metti sul piedino, se non sbaglio, adesso non mi ricordo se era il 4, sì, il 4, piedino 4, e dopodiché stacchi la batteria proprio tiralampi e i due cavi che vanno alla batteria, uno lo metti sulla massa, l'altro invece lo stacchi, dove arriva, lo stacchi dalla batteria e lo colleghi al filo rosso, e quel filo rosso lo metti sul piedino numero 4 e già puoi andare a metà del microfono. Dopodiché prendi, e quello lo puoi fare subito, te lo dimostro subito, che c'hai almeno 3 o 4 tacche in più sul microfono senza che fischi, prendi dalla base del microfono di sotto un cavettino e lo metti sulla radio, nella parte posteriore della radio, e smetti di fischiare. Vabbè, ma per fare tutti i giri, io grazie a Dio ho una buona massa, l'antenna è la posta la mia, è nuova. Grazie a Dio non mi ha mai fischiato, no, secondo me diciamo è anche per via del processore, perché troppo cerco di mostrare. Vabbè, anche se aumento, c'è una cagata la radio, guarda, allora, adesso sono senza processore, io aumento, ok, adesso microfono, allora, microfono a 5, però vedi, non so come la radio, ma sicuramente rientrato vicino elettrico, ce l'hai adesso vicino tavo elettrico, sono aspetta, se vuoi lo attacco, ok Gianni, se vuoi lo attacco, non c'è problema, microfono, giusto? C'è bisogno, io ti sto dicendo, adesso riattacca il processore, riabbassa il microfono, dopodiché lo metti al limite di quando fischia, dopodiché prendi un cavo elettrico, lo tieni con la mano e lo tieni nella parte sottostante al microfono e prendi il cavo e lo metti, hai presente dove c'è la maniglia dell'apparato? Tu lo incastri in modo tale che tocchi le parti di ferro laterali della maniglia e dopodiché mi dice, inizia a aumentare modulando e vedi che ti fischia almeno dopo il 6. Vabbè, posso anche provare, aspetta, riprendi Gianni. Dunque posso attaccare anche la vita, non è un problema, non va appena, gli attacco la vita, lui gliela se ne fa massa. Fatti dini, fallo così, giusto per provare. Dai, sono rientrato, vai. Saluto tutti i nuovi entrati e nuovi usciti. Cambio, avanti Grudino. Già che sei il solo, perché eravamo in due, almeno ci siamo contatti, così eravamo. Avanti se c'è qualcun altro in ruota. Attivo. Ma dove sei? Sempre in BM? Cava. Cava di Roggero. Ma sei rientrato nel senso che quindi era una visita breve? Sì. Posso anche spiegartelo, c'è mia sorella che è in coma da 2 anni e vado di domenica a visitarla, ecco voglio dire. Questo mi dispiace, ti sono vicino. E dov'è? In quella struttura che c'è giù a Piandanna di fronte a quella nuova? Cava, San Nicola, sì. Roger, conosco una delle dirigenti di quella struttura. Purtroppo dovuta alla negligenza della sua dottoressa, perché beveva molta acqua e andava a lamentarsi, non le facevamo fare le analisi giuste. Poi con diabete insipido praticamente è arrivata a bere 21 litri di acqua in un giorno e l'abbiamo trovata a casa sua, riversa sulla vasca, con la giugulare che pressava sulla vasca da bagno. Probabilmente si è resa conto che stava male, è andata in bagno e purtroppo da lì non si è più mossa. Vabbè, mi dispiace, ti ripeto, sono cose purtroppo della vita che bisogna accettare. Certo è che molti non capiscono che ricoprire determinati ruoli come quello di un medico è una grossissima responsabilità, anche se non operi, ma fai solamente il medico di famiglia, capito? Infatti vorrei prendermi la braccetta e portare all'ospedale per la ridotta, almeno per stare più attenta con gli altri pazienti, non per altro, la mia l'ha rovinata. Il dottore dell'ospedale ha detto che lui, come l'ha vista, ha detto, ha fatto le analisi, ha detto, la signora ha un diabete insipido e praticamente ha preso tutto il potassio, perdendo tutta quell'acqua e è andata sotto il velo e è entrata in coma per quello. Potrebbe essere salvata benissimo con una pastiglia tranquillamente al giorno, se la dottoressa sua, se non era competente, doveva farla ricoverare per accertamento. L'avremmo trovato subito, se l'avesse fatta ricoverare avremmo trovato subito ciò che aveva. Beh certo, certo che sì, ma che avesse il diabete lo sapeva da prima. No, non lo sapeva, aveva un diabete insipido, lui aveva fatto le analisi per il diabete normale, il diabete mellito, e quello per il diabete insipido è un'altra analisi che si fa specifica, non era mai fatta fare, capito? L'ha presa talmente tanta quando diceva che beveva un po' di acqua. 3 litri però, già dopo che ne bevi due, che sono quelli normali, inizia a accendersi una spia. Se poi arrivi a 21, cioè ma neanche a 21, già a 5 mi sarebbe messo il problema, sarebbe da pronto soccorso a 21. Sottostante del microfono e dopodiché infilarlo dentro la maniglia e ti dà almeno 3 o 4 punti in più di mic gain del microfono senza fischiare. No, mi fa scarica, che guarda, ora è importante, guarda, aspetta, guarda cosa fa. Hai visto? Quello lì secondo me è perché c'hai troppa potenza di batteria. Secondo me è quello, poi cretinata sto dicendo, ma a me sembrava che stessi uscendo bene fino a chiedo conferma a Gianni. Sì, così. Lui bisogna farlo bene, magari fatto bene di più. Allora, il problema è che vabbè, non penso che sia la batteria comunque sia. Ho attaccato il filo sotto. Sapere appena c'è il coso, mi sembra che fosse il 4 perché all'8 c'era la massa supplementare, non vorrei sbagliare, però mi sembra 4. Comunque mi hai detto, allora, se non ricordo male, attaccare la... facciamo che sia l'8, ok? E poi l'altro profilo o la cacchiamo? Tanto nero? Nero glielo metti a massa sulla, sulla massa del coso, del, del, della, del microfono stesso, capito? Intanto quello che ti interessa a te è, oppure ti cerchi il cavetto di massa che dovrebbe essere la calza, lo rigiri sulla calza, quello lì. No, ok, noi lo vediamo con calma così. C'è quello che devo fare l'anno. Intanto guarda, no, tu, bisognamente l'ho attaccato, mi ricompo di. Mi compro di nuovo con l'MC60, perché con quello non sbaglio. E va più che bene. Va più che bene. Ma riprendi. Riprendi tu Gianni. Sei un po' più potente, però sei fondo scala. Dai ragazzi, va bene, allora andrà bene, dai ragazzi, vi saluto, io vado a mettermi la pasta al fuoco, che oggi sono solo. Sentiamo più tardi, allora siamo qua noi. Se ne auguria, siamo qua. Quando faccio un pezzo di no, se ne auguria di uscire, faccio un giro. Siamo d'accordo, risordi, oggi abbiamo risordi, per me ci vuole il gasolio, un casino, sono tutti d'accordo. Vabbè, vediamo un po', se la gara io non c'è problema, faccio una ricetta, mi cambio e via. Ragazzi, la salute di Luca, la fonte di una Giavella, ci sentiamo dopo, dai raga, la voce accetta, quando mi sdraio poi mi piace. Roger, dai, buona carica batteria quando la fai e ci sentiamo alle prossime. Oh Luca, un attimino di bianco per me che riprendo la casa mia. Tranquillo, adesso un guaio l'ascolto, eh. Magari se non mi sento, non ci sentiamo dopo, magari stasera. Io rimango in frequenza. Cioè, ma anche rimane acceso comunque, cioè, a dopo, ciao. Così ti faccio sentire com'è l'abbinata, dai. Ciao ciao. Ciao ciao.